La rosa orgogliosa. Una volta, in un deserto dove niente poteva sopravvivere, avvenne un miracolo. Una bella e affascinante rosa fiorì. Era una piccola gemma che sbocciò in un piccolo fiore. Anche se doveva ancora avere tutti i suoi petali, era la cosa più bella mai vista. Proprio accanto alla rosa crescevano due cactus. I loro nomi erano Ted e Muschio. Ted era un cactus basso e Muschio era alto. Avevano le loro forme uniche ed erano molto felici di avere una rosa tra di loro. Non è magico avere una rosa che sboccia tra di noi? Lo è davvero, Ted. Lo è davvero. Aspetta. Perché non la chiamiamo magia? Oh, è un nome meraviglioso, magia. E così la bella rosa fu chiamata Magia. Magia non era una rosa normale e i due cactus lo sapevano bene. Stava crescendo troppo lentamente per un fiore normale. E per la gioia di Ted e Muschio, sembrava che fosse lì per rimanere per un lungo tempo. Anche se solo una bambina, Magia era molto birichina. Pizzicava Muschio e dava la colpa a Ted. La finisci ora, Ted? Questo trucco è vecchio. È trucco? Stai parlando di me che bevo l'acqua immagazzinata dentro di me? Questo non è un trucco, è così che sopravvivo. Continua a bere l'acqua dentro di te. È tutto. Che schifo, è disgustoso. Fai quello che vuoi, smettila di dirmelo e smettila di pizzicarmi. Pizzicarti? Santo cielo, ti sei addormentato con gli occhi aperti di nuovo? Non osare giocare quella carta, è successo una volta ed ero stanco. Sì, come no, stanco di cosa, genio? Di stare in mezzo al deserto? Perché non fai una piccola passeggiata allora? Le tue radici, le tue regole. Ah, smettila di pizzicarmi, va bene? Non ti sto pizzicando. Smetti di sognare ad occhi aperti. I cactus avrebbero discusso per ore su questo. Nessuno avrebbe mai accusato la piccola e innocente rosa. Sia Ted che Muschio, essendo cactus, contenevano abbondante acqua. Ognuno di loro dava un po' d'acqua a Magia e l'aiutavano a rimanere in buona salute. Entrambi amavano molto Magia e non le dissero mai che se non avesse bevuto abbastanza acqua sarebbe morta. Passarono i mesi e Magia crebbe. Sbocciò e divenne il fiore più bello sulla terra. Aveva strati e strati di petali ed era di colore rosso vivo. Sorprendentemente, divenne più alta di Ted, ma era ancora più bassa di Muschio. Entrambi i cactus erano molto orgogliosi della loro magia. Le sue radici si spargevano sotto la sabbia e mantenevano forte la sua postura sulla superficie. Muschio le faceva una doccia ogni volta che lei lo chiedeva e Ted apriva di buon cuore il suo ramo e le permetteva di bere acqua quando aveva sete. Niente cambiò. Amava entrambi i suoi amici. Passarono i mesi e finalmente il deserto ebbe un visitatore. Era un turista su un cammello. Che cosa? Una rosa? Nel deserto? Questa è la cosa più magica e più bella che abbia mai visto. Il turista si avvicinò ed esaminò il fiore. Prese quindi una ciotola d'acqua e la mise di fronte a Magia. Devi essere così assetato, piccolo fiore. Aspetta, fammi trovare il mio piccolo spray. È ora di farti un bagno. Ma Magia non stava ascoltando. Era incantata da ciò che vedeva nella ciotola d'acqua. Era il suo riflesso. Io sono il fiore più bello, in effetti. Guarda quella postura dritta. Oh, il colore rosso vivo, i petali spessi, sono fantastica. Mentre invece pensavo di assomigliare a Ted e Muschio. Pensavo di avere bisogno di loro, ma no. Loro hanno bisogno di me. Li faccio sembrare attraenti. Il turista trovò il suo spruzzino. L'immerse nella ciotola d'acqua e spruzzò goccioline su Magia. Le goccioline diedero a Magia un aspetto ancora più incantevole. Oh cielo, oh cielo, guardatemi! Questo fiore è bellissimo! Oh, grazie straniero! Sono sicuro che verrò pagato con una bella ricompensa se sradico questo fiore e lo porto con me. Ti piacerebbe vedere la città, non è vero? La città? Ovviamente mi piacerebbe vedere la città. Oh, cos'è questa ferita sul tuo gambo? Ah, devono essere questi cactus. Meriti di essere messa in un giardino, così che sicuramente tutti possono venire a vederti. Il turista non sapeva che la ferita veniva dal fatto che Magia doveva piegarsi per bere l'acqua di Ted. Inoltre non sapeva che non sarebbe sopravvissuta se fosse stata sradicata e portata via da dove apparteneva. Aspetta, lascia che ti sradichi. Ma entrambi i cactus lo sapevano. Sapevano che la città era molto, molto lontana. Magia era davvero un fiore magico. Eppure era solo una rosa. Non avrebbe potuto sopravvivere al lungo viaggio attraverso questo difficile deserto. Sapevano che una volta sradicata, Magia non avrebbe vissuto a lungo. Senza pensarci due volte, ferirono il turista mentre si avvicinava per sradicare la rosa. Ah! Come vi permettete, stupidi cactus! Con rabbia e dolore, il turista colpì Muschio. Ma essendo un cactus, non gli fece proprio niente. Invece, il turista si fece male a causa delle spine. Ah! Chi è stupido ora, umano? Bella questa, Muschio! Il turista non riusciva a sentire i cactus ridere di lui, ma era certo che lo stessero facendo. Questo lo rese più furioso e diede un calcio a Ted. Ma ancora una volta... Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Deve fermarsi! Il turista si sedette tristemente sul suo cammello e se ne andò. Ted e Muschio risero di gusto, ma Magia non lo fece. Come vi permettete entrambi? Perché siete così gelosi di me? Gelosi? Magia, tu non capisci. Ti stava prendendo solo per il suo guadagno. Non si sarebbe curato di te. Chi sei tu per decidere cosa è giusto per me? Voi due siete brutti cactus. Io sono il fiore più bello di questo pianeta. Non avete sentito? Dovrei essere tenuta in un giardino così che la gente venga a vedermi. Magia, non essere così orgogliosa di te stessa. Perché no? Cosa c'è di così speciale in voi due? Possiamo tenere l'acqua per anni. Come pensi di sopravvivere? Ma Magia non stava ascoltando. Continuava a lamentarsi e a insultare i due cactus. Promise che non si sarebbe mai più piegata per bere l'acqua di Ted. Non voleva ferire il suo bel collo. Veramente? Non berrai mai più l'acqua? Bene, Ted, abbiamo fatto abbastanza per lei. Dovrà badare a se stessa ora. Entrambi i cactus si irrigidirono e smisero di parlare con Magia. Erano molto arrabbiati con lei per l'arroganza che aveva dimostrato all'improvviso. Magia fu molto felice per i primi giorni. L'acqua nelle sue radici veniva usata per tenerla fresca. Non guardò nessuno dei cactus e si tenne sempre ben dritta. Ma una settimana dopo iniziò a sentirsi debole. Cercava ancora di stare dritta perché non voleva mostrare a nessuno la sua debolezza. Ma mentre tutta l'acqua delle sue radici veniva consumata, le sue viscere non ce la facevano più e cominciò ad ansimare. Magia, abbandona il tuo orgoglio e bevi un po' d'acqua. Sì, Magia, Sarai comunque il fiore più bello dopo aver bevuto un po' d'acqua. No, io non mi piegherò. Trascorso un altro giorno e ora Magia era completamente piegata. Aveva le vertigini ed era molto debole. Iniziò a piangere. Perché mi sta succedendo questo? Perché hai bisogno di acqua per sopravvivere, fiore orgoglioso. Per favore, lascia che ti aiutiamo. Volete ancora aiutarmi? Non volevo piegarmi, ma la natura me l'ha fatto fare. Ho capito il mio errore. Sono stata terribile con entrambi. Mi merito questo. Mi dispiace molto. Senza sprecare un solo minuto, sia Ted che Muschio fecero piovere acqua su Magia. Ci volle un po' di tempo, ma finalmente Magia tornò in sé. Oh, mi dispiace molto. Mi perdonerete entrambi. Sei già perdonata, la nostra piccola Magia. Le tre piante erano di nuovo felici. Magia aveva capito il suo errore. L'orgoglio è un'emozione molto costosa. Se siamo troppo orgogliosi di noi stessi, dobbiamo essere pronti a pagare un prezzo molto alto.